avanti. Tu vai, mangiati un brodino di mammo, eh? Vuoi finire? Hai finito? Vai, vai, cuocuoco, ti chiamo da scoppetto, che sì. Hai finito però? Hai finito di rompere i coglioni, eh? Ma fammi il cicchio. Sentita vai, eh? Vabbè, aspetta un attimo, devo ascoltare un audio. Sì. Ahia. Andrà sabato. Ok, ci sono. Vai, che ti ha fatto l'amicizia.